Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Luglio 1883. Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita, insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente, come i granellini che si affollano e sfilano ad uno senza fretta e senza soste, dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. In alcuni momenti di intensa attività, di grande attenzione, questo sentimento di continuo abbandono scompariva, per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio o di introspezione, come un ronzio continuo all'orecchio, come il battito di una pendola si impongono quando tutto il resto tace e ci rendono sicuri allora che essi sono sempre stati lì, vigili, anche quando non li udivamo. In tutti gli altri momenti gli bastava sempre un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano via lievi, degli attimi di tempo che evadevano dalla sua vita e lo lasciavano per sempre. La sensazione del resto non era prima legata ad alcun malessere, anzi, questa impercettibile perdita di vitalità era la prova, la condizione, per così dire, della sensazione di vita. E per lui, avvezzo a scrutare spazi esteriori illimitati, a indagare vastissimi abissi interiori, essa non era per nulla sgradevole, era quella di un continuo, minutissimo sgretolamento della personalità, congiunto però al presagio vago del riedificarsi altrove di una individualità, grazie a Dio, meno cosciente ma più larga. Quei granellini di sabbia non andavano perduti, scomparivano, sì, ma si accumulavano chissà dove per cementare una mole più duratura. Mole, però, aveva riflettuto, non era la parola esatta, pesante com'era. E granelli di sabbia, d'altronde, neppure. Erano più come delle particelle di vaporacqueo che esalassero da uno stagno costretto per andar su nel cielo a formare le grandi nubi leggere e libere. Talvolta si sorprendeva che il serbatoio vitale potesse ancora contenere qualcosa dopo tanti anni di perdite, neppure se fosse grande come una piramide. Tal'altra volta, più spesso, si era inorgoglito di essere quasi solo ad avvertire questa fuga continua, mentre attorno a lui nessuno sembrava sentire lo stesso, e ne aveva tratto motivo di disprezzo per gli altri, come il soldato anziano disprezza il coscritto che si illude che le pallottole ronzanti intorno siano dei mosconi innocui. Queste sono cose che, non si sa poi perché, non si confessano. Si lascia che gli altri le intuiscano, e nessuno intorno a lui le aveva intuite, mai. Nessuna delle figlie, che sognavano un oltretomba identico a questa vita, completo di magistratura, cuochi, conventi e orologiai, di tutto. Non Stella, che divorata dalla cancrena del diabete, si era pure aggrappata meschinamente a questa esistenza di pene. Forse solo Tancredi, per un attimo, aveva compreso, quando gli aveva detto con la sua ritrosa ironia, «Tu, Zione, corteggi la morte». Adesso il corteggiamento era finito. La bella aveva detto il suo sì, la fuga decisa, lo scompartimento nel treno riservato. Seduto su una poltrona, le gambe lunghissime avvolte in una coperta, sul balcone dell'albergo Trinacria sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno. Era il mezzogiorno di un lunedì di fine luglio, ed il mare di Palermo, compatto, oleoso, inerte, si stendeva di fronte a lui, inverosimilmente immobile ed appiattito come un cane che si sforzasse di rendersi invisibile alle minacce del padrone. Ma il sole, immoto e perpendicolare, stava lì sopra, piantato a gambe larghe, e lo frustava senza pietà. Il silenzio era assoluto. Sotto l'altissima luce don Fabrizio non udiva altro suono che quello interiore della vita che rompeva via da lui. Il principe era arrivato la mattina da Napoli poche ore fa. Vi si era recato per consultare il professore Semmola, accompagnato dalla quarantenne figlia Concetta, dal nipote Fabrizietto. Aveva compiuto un viaggio lugubre, lento come una cerimonia funebre. All'arrivo le solite maschere dei familiari con il dipinto sorriso di compiacimento per il buon esito del viaggio. Fu anzi dal sorriso consolatorio delle persone che lo aspettavano alla stazione, dal loro finto e malfinto aspetto rallegrato, che gli si rivelò il vero senso della diagnosi di Semmola, che a lui stesso aveva detto soltanto delle rassicuranti generalità. E fu allora, dopo essere sceso dal treno, mentre abbracciava la nuora sepolta nelle gramaglie di vedova, i figli che mostravano i loro denti nei sorrisi, Tancredi con i suoi occhi timorosi, Angelica con la seta del corpetto ben tesa dai seni maturi. Fu allora che si fece udire il fragore della cascata. Probabilmente svenne perché non ricordava come fosse arrivato alla vettura. Vi si trovò disteso con le gambe rattrappite, col solo Tancredi vicino. La carrozza non si era ancora mossa e da fuori gli giungeva all'orecchio il parlottare dei familiari. «Non è niente, il viaggio è stato troppo lungo, con questo caldo sveniremmo tutti, arrivare sino alla villa lo stancherebbe troppo». Era di nuovo perfettamente lucido. Notava la conversazione seria che si svolgeva fra Concetta e Francesco Paolo, l'eleganza di Tancredi, il suo vestito a quadretti marrone e bigi, la bombetta bruna. E notò anche come il sorriso del nipote non fosse una volta tanto beffardo, anzi, come fosse tinto di malinconico affetto. E da questo ricevette la sensazione agrodolce che il nipote gli volesse bene, ed anche che sapesse che lui era spacciato, dato che la perpetua ironia si era adattata ad essere spazzata via dalla tenerezza. La carrozza si mosse e svoltò sulla destra. «Ma dove andiamo, Tancredi?» La propria voce lo sorprese. Vi avvertiva l'eco del rombo interiore. «Zione, andiamo all'albergo Trinacria. Sei stanco e la villa è lontana. Ti riposerai una notte e domani tornerai a casa». Un medico fu la prima comodità che trovò all'albergo. Era stato fatto chiamare in fretta, forse durante la sua sincope. Misurò i battiti del polso, prescrisse delle gocce di canfora, mostrò i denti cariati in un sorriso che voleva essere rassicurante e che invece chiedeva pietà. Se ne andò a passi felpati. Presto dalla farmacia vicina giunsero le gocce, gli fecero bene, si sentì un po' meno debole, ma l'impeto del tempo che gli sfuggiva non diminuì la propria foga. Don Fabrizio si guardò nello specchio dell'armadio. Riconobbe più il proprio vestito che se stesso, altissimo, allampanato, con le guance infossate, la barba lunga di 3 giorni. Sembrava uno di quegli inglesi maniaci che deambulano nelle vignette dei libri di Verne che per Natale regalava a Fabrizietto. Un gattopardo in pessima forma. Perché mai Dio voleva che nessuno morisse con la propria faccia, perché a tutti succede così. Si muore con una maschera sul volto, anche i giovani, anche quel soldato col viso imbrattato, anche Paolo, quando lo avevano rialzato dal marciapiede con la faccia contratta e spiegazzata, mentre la gente rincorreva nella polvere il cavallo che lo aveva sbattuto giù. E se in lui, vecchio, il fragore della vita in fuga era tanto potente, quale mai doveva essere stato il tumulto di quei serbatoi ancora colmi che si svuotavano in un attimo da quei poveri corpi giovani? «Bisogna far chiamare un barbiere», disse a Francesco Paolo, ma subito pensò «no». È una regola del gioco, esosa ma formale. Mi raderanno dopo. E disse forte, lascia stare, ci penseremo poi. L'idea di questo estremo abbandono del cadavere con il barbiere accovacciato sopra non lo turbò. Nella stanza bassa si soffocava. Il caldo faceva lievitare gli odori, esaltava il tanfo delle peluche mal spolverate. Don Fabrizio fece aprire le persiane. L'albergo era in ombra, ma la luce riflessa dal mare metallico era accecante. Meglio questo, però, che quel fetore di prigione. Disse di portare una poltrona sul balcone. Appoggiato al braccio di qualcheduno, si trascinò fuori. E dopo quel paio di metri sedette con la sensazione di ristoro che provava un tempo riposandosi dopo 6 ore di caccia in montagna. Dì a tutti di lasciarmi in pace, mi sento meglio, voglio dormire. e se ne stava lì, immerso nel grande silenzio esteriore, nello spaventevole rombo interno. Era solo, un naufrago alla deriva su una zattera, in preda a correnti indomabili. C'erano i figli, certo, i figli. Il solo che gli rassomigliasse, Giovanni, non era più qui. Ogni paio di anni inviava saluti da Londra. Non aveva più nulla da fare con il carbone e commerciava in brillanti. Dopo che Stella era morta, era giunta all'indirizzo di lei una letterina e poco dopo un pacchettino con un braccialetto. Quello sì. Anche lui aveva corteggiato la morte. Anzi, con l'abbandono di tutto, aveva organizzato per sé quel tanto di morte che è possibile mettere su, continuando a vivere. Ma gli altri... C'erano anche i nipoti. Fabrizietto, il più giovane dei Salina, così bello, così vivace, tanto caro, tanto odioso, con la sua doppia dose di sangue malvica, con gli istinti goderecci, con le sue tendenze verso un'eleganza borghese. Era inutile sforzarsi a credere il contrario. L'ultimo Salina era lui, il gigante sparuto che adesso agonizzava sul balcone di un albergo, perché il significato di un casato nobile è tutto nelle tradizioni, nei ricordi vitali, e lui era l'ultimo a possedere dei ricordi inconsueti, distinti da quelli delle altre famiglie. Fabrizietto avrebbe avuto dei ricordi banali, uguali a quelli dei suoi compagni di ginnasio, e di lui sarebbe rimasto soltanto il ricordo di un vecchio e collerico nonno che era schiattato in un pomeriggio di luglio, proprio a tempo, per impedire al ragazzo di andare a fare i bagni a Livorno. Lui stesso aveva detto che i Salina sarebbero sempre rimasti i Salina. Aveva avuto torto. L'ultimo era lui. Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano, aveva dopo tutto vinto. Dalla camera vicina, aperta sullo stesso balcone, gli giungeva la voce di Concetta. Non se ne poteva fare a meno, bisognava farlo venire. Non mi sarei mai consolata se non lo si fosse chiamato. Comprese subito. Si trattava del prete. Un momento ebbe l'idea di rifiutare, di mentire, di mettersi a gridare che stava benissimo, che non aveva bisogno di nulla. Presto si accorse del ridicolo delle proprie intenzioni. Era il principe di Salina, e come un principe di Salina doveva morire, con tanto di prete accanto. La porta si aprì. Preceduto dal direttore dell'albergo, svizzerotto seccatissimo di avere un moribondo nel proprio esercizio, padre Balsano, il parroco, entrò, recando sotto la pisside il Santissimo custodito dall'astuccio di pelle. Tancredi e Fabrizietto sollevarono la poltrona, la riportarono nella stanza. Gli altri erano inginocchiati. Più col gesto che con la voce disse: «Via, via». Voleva confessarsi. Le cose si fanno o non si fanno. Tutti uscirono, ma quando dovette parlare si accorse che non aveva molto da dire. Ricordava alcuni peccati precisi, ma gli sembravano tanto meschini che davvero non valeva la pena di aver importunato un degno sacerdote in quella giornata di afa. Non che si sentisse innocente, ma era tutta la vita ad essere colpevole, non questo o quel singolo fatto. Vi è un solo peccato, vero, quello originale, e ciò non aveva più tempo di dirlo. I suoi occhi dovettero esprimere un turbamento che il sacerdote poté scambiare per espressione di contrizione, come di fatto in un certo senso era. Fu assolto. Il mento, a quanto sembrava, gli poggiava sul petto, perché il prete dovette inginocchiarsi lui per insinuargli la particola fra le labbra. Poi furono mormorate le sillabe immemoriali che spianano la via, e il sacerdote si ritirò. Thank you. La poltrona non fu più trascinata sul balcone. Tancredi gli stringeva forte la mano e parlava, parlava molto, parlava allegro. Il principe era grato delle chiacchiere e gli stringeva la mano con grande sforzo ma con trascurabile risultato. Era grato, ma non lo stava a sentire. Faceva il bilancio consuntivo della sua vita, voleva raggranellare fuori dall'immenso mucchio di cenere delle passività le pagliuzze d'oro dei momenti felici. Eccoli, 2 settimane prima del suo matrimonio, 6 settimane dopo, mezz'ora in occasione della nascita di Paolo, quando sentì l'orgoglio di aver prolungato di un rametto l'albero di casa Salina, molte ore in osservatorio assorte nell'astrazione dei calcoli e nell'inseguimento dell'irraggiungibile. Ma queste ore potevano davvero essere collocate nell'attivo della vita? Non erano forse un'elargizione anticipata delle beatitudini mortuarie? Non importava, c'erano state. Nella strada sotto, fra l'albergo e il mare, un organetto si fermò e suonava nell'avida speranza di commuovere i forestieri, che in quella stagione non c'erano. Tancredi, col suo intuito, corse al balcone, buttò giù una moneta e fece segno di tacere. Il silenzio fuori si richiuse. Il fragore dentro ingigantì. Tancredi. Certo, molto dell'attivo proveniva da lui. La sua comprensione, tanto più preziosa in quanto ironica, il godimento estetico di veder come si destreggiasse fra le difficoltà della vita, l'affettuosità beffarda, come si conviene che sia. Dopo, i cani. Fufi, la grossa mops della sua infanzia, la balordaggine deliziosa di Bendicò, le zampe carezzevoli di Pop, il pointer che in questo momento lo cercava sotto i cespugli e le poltrone della villa e che non lo avrebbe più ritrovato. Vi erano le prime ore dei suoi ritorni a Donna Fugata, il senso di tradizione, di perennità espresso in pietra ed in acqua, il tempo congelato, lo schioppettare allegro di alcune cacce, il massacro affettuoso dei conigli e delle pernici, alcune buone risate con Tumeo, alcuni minuti di compunzione al convento fra l'odore di muffa e di confetture. Ho 73 anni, all'ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di 2, 3 al massimo. E i dolori, la noia, quanto erano stati? Inutile sforzarsi a contare. Tutto il resto, 70 anni. Sentì che la mano non stringeva più quella del nipote. Tancredi si alzò in fretta ed uscì. Non era più un fiume che rompeva da lui, ma un oceano tempestoso, irto di spume e di cavalloni sfrenati. Doveva aver avuto un'altra sincope, perché si accorse a un tratto di essere disteso sul letto. Qualcuno gli teneva il polso. Dalla finestra il riflesso spietato del mare lo accecava. Nella camera si udiva un sibilo. Era il suo rantolo, ma non lo sapeva. Attorno vi era una piccola folla, un gruppo di persone estranee che lo guardavano fisso, con un'espressione impaurita. Via via li riconobbe. Tancredi, Concetta, Angelica, Francesco Paolo, Carolina, Fabrizietto. Fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una giovane signora, snella, con un vestito marrone da viaggio ad ampia tournure, con un cappellino di paglia ornato da un velo a pallottoline che non riusciva a nascondere la maliosa avvenenza del volto. Era lei, la creatura bramata da sempre, che veniva a prenderlo. Strano che così giovane com'era si fosse arresa a lui. L'ora della partenza del treno doveva essere vicina. Giunta faccia a faccia con lui, sollevò il velo e così, pudica, ma pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.